dice, ti dice il cor. Senti, senti ciò che ti dice il cor. Senti, senti ciò che ti dice il ciò che ti dice il cor.